Raffaello, Ademo, Elisabetta. Presente. Bozzini, Emanuela. Presente. Calderon, Clelia e Leo. Presente. De Angelis, Marco. Presente. Obbligo di frequenza di Maria Piera Ceci. Speravo davvero di poter evitare quest'anno l'ormai classica puntata sulle polemiche relative a presepici, su bambini messi a scuola, ma purtroppo non ce l'ho fatta. Anche quest'anno infatti si discute se sia giusto o meno celebrare eventi religiosi fra i banchi di scuola, su cui peraltro sempre più spesso siedono studenti di altre religioni o semplicemente che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. Dico subito qual è la mia posizione, così sgombriamo il campo da equivoci. Secondo me la scuola deve essere laica, ma faro illuminante dell'agire concreto tutti i giorni di dirigenti scolastici ed insegnanti deve essere su tutto il sano buonsenso. E qua il buonsenso proprio è andato a farsi friggere. Scuola dell'infanzia di Castel Daiano, in provincia di Bologna. Qua addirittura nella recita scolastica sono scomparsi alcuni termini. Sentite cosa ci ha raccontato un papà, Alessandro Gerla. Ma il bambino Gesù diventa il bambinello, la Madonna diventa la signora e il San Giuseppe il falegname. Lei capisce che diventa difficile da spiegare a dei bambini di 5 anni. E non si può neanche dire alleluia? No, guai dire alleluia. Anche gloria, assolutamente. Sostituiti da pace? Sostituiti da canti generici, inneggianti alla fratellanza, alla pace. Che comunque sono belle parole. Tutto questo perché? Ma tutto questo per rispetto degli umori, della sensibilità di atei o comunque credenti ad altre religioni. Ma l'hanno chiesto queste famiglie che venissero sostituiti questi termini nella recita scolastica? Assolutamente no, è stata un'iniziativa dei docenti appoggiati dai dirigenti scolastici che hanno comunque sia avvallato questa nuova impronta da dare a una recita che si fa da sempre nel nostro paese e che quest'anno invece sembra diventato difficilissimo metterla in pratica. Senta, ma l'anno scorso com'è andata? Ha protestato qualcuno delle famiglie musulmane per questa recita a sfondo religioso? Assolutamente no, l'anno scorso è stata una bellissima festa. E avete anche gustato piatti esotici, mi raccontava. Sì, c'era anche il couscous. E nessuno ha protestato, però quest'anno niente Madonna, niente San Giuseppe nella recita. Lei come genitore però questa cosa proprio insomma non è che le piace tanto, perché diventa difficile a spiegare ai bimbi. No, mi diventa veramente difficile quando mi arriva mio figlio a casa e mi dice: No, papà, Gesù, bambino, non puoi dirlo, devi dire il bambinello. Io dico, ma come? Ma non scherzerai, Michele? No, non puoi dirlo. E a quel punto mi tocca spiegargli delle cose inspiegabili, a mio avviso. È vero che l'hanno chiamata alcune famiglie musulmane dicendo, non siamo stati noi a chiederlo. No, si sono preoccupate subito. Quando è nata questa polemica in paese si sono preoccupate di farmi sapere assolutamente che non erano delle richieste loro, ma erano delle iniziative dei docenti e che loro erano ben felici di partecipare alla recita. E addirittura c'è stata una famiglia che ha posticipato la partenza per il Marocco di tre giorni per far partecipare i propri due figli alla recita. Quindi insomma questo atteggiamento politico lì corretto da parte della dirigenza della sua scuola in qualche modo le sembra poco giustificato? Beh, quantomeno mi sembra strumentale. Dal bolognese ci spostiamo nella provincia di Rieti, istituto comprensivo di Lionessa. La dirigente scolastica, sollevando proteste di tutto il paese, decide di interrompere una tradizione ormai decennale, la messa di Natale celebrata dentro la scuola. Poi una lunga trattativa con il sindaco Paolo Trancassini. Guardi, io credo che lei abbia fatto una scelta in buona fede, sinceramente. Cioè, ha ritenuto proprio che, visto il dibattito, viste le problematiche legate anche alla presenza del crocifisso, la messa all'interno della scuola fosse una forzatura. Adesso io non entro nel merito di questa sua scelta, è chiaro però che toglierla e cancellarla definitivamente era un errore e poteva anche sembrare una vera e propria provocazione. Scusi, ma siamo sicuri che è possibile effettuare all'interno delle mura scolastiche, all'interno dell'orario scolastico, sì, una messa? Perché la scuola pubblica comunque dovrebbe essere laica, no? Quindi non solo, sì, per i bambini stranieri che sfera... ci sono nelle scuole, ma anche per i bambini che per esempio decidono, sì, di non avvalersi della religione cattolica. Sì, sì, no, ma c'è una nota esplicativa della curia della diocesi di Rieti su questo, che appunto richiamava la discrezionalità, quindi è possibile svolgerla. Però ripeto, a me la cosa che ha più preoccupato in tutto questo è che questa polemica finiva per accendere i riflettori su una problematica che nel mio comune non c'è. Noi abbiamo incontrato questa piccola comunità, voglio dire, Leonessa è un comune di 3.000 abitanti, quindi ci si conosce tutti, questi ragazzi, questi bambini, ma soprattutto i genitori musulmani, vogliono che si celebri la messa. Un simpaticissimo muratore musulmano che è da noi da tanti anni ha detto: adesso, se noi adesso andiamo al bar insieme, io non bevo vino e non posso pretendere che voi non beviate vino, l'importante è che voi non mi obbligate a me a berlo, ma possiamo andare al bar insieme, io prendo un succo di frutta e voi bevete il vino. Mi chiedo solo se sia opportuno all'interno delle mura scolastiche, perché se all'interno delle mura scolastiche invece il ragazzino musulmano chiedesse comunque di praticare la sua fede, non so che cosa succederebbe. No, ma guardi, questo è stato, ripeto, io la sensibilità su questo aspetto sottolineato dalla preside, lo capisco e ho immediatamente proposto come momento di mediazione fra le istanze dei genitori e la preoccupazione della dirigenza scolastica di fare quello che si faceva quando io andavo a scuola, cioè si andava a scuola e si usciva per andare a messa, o nelle primissime ore o nelle ultime ore, in modo che chi non vuole o esce prima o arriva più tardi. Una notizia... peccato che in quelle ore bisognerebbe far didattica. Insomma, la nostra è una realtà molto molto religiosa, attaccata moltissimo alle tradizioni. Quindi si fa didattica se una volta l'anno si va a messa. Sono il nuovo ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Prima di me si sono succeduti in Viale Trastevere tanti altri ministri, intenzionati a cambiare la scuola italiana. Ognuno di loro aveva un'idea alla quale era particolarmente affezionato. Abolire gli esami a settembre, D'Onofrio. Rimettere gli esami a settembre, Fioroni. Riformare gli esami di maturità, Berlinguer. Riformare la riforma degli esami, Moratti. Introdurre il modulo dei tre maestri per due classi nelle scuole elementari, Mattarella. Tornare al maestro unico, Gelmini. E poi chi si preoccupava dei grembiuli degli alunni, chi dell'educazione stradale, chi rivalutava Dante e chi scopriva le tabelline, chi si occupava di educazione sessuale, chi amava i giudizi e chi ripristinava i voti, lo statuto degli studenti e il 5 in condotta. Proseguiamo la carrellata sui libri che parlano di scuola, un'idea per un regalo, se preferite, per farvi una buona lettura durante le vacanze di Natale. Non è il ministro Gelmini quello che avete sentito, ma Claudio Cremaschi, autore di Mala Scuola, edizioni PM. Uno sguardo lucidissimo e puntuale su tutto ciò che non va nella scuola, senza faziosità e senza sconti per nessuno, quello di Cremaschi, ex insegnante, ex preside, ex sindacalista. E allora cosa farebbe Cremaschi come prima cosa se fosse davvero ministro dell'istruzione? Sono convinto che bisogna mettere in mano il rapporto di lavoro degli insegnanti. Ci sono mille problemi nella scuola, ma siccome poi la sostanza della scuola la fanno gli insegnanti, che sono il 97% del costo del bilancio del Ministero dell'Istruzione, se non si mette mano al tema centrale, noi possiamo fare tutte le belle riforme che vogliamo, ma non avremo mai nessun risultato. A me piace molto il suo libro perché è un libro poco lagnoso, nel senso che individua tantissime problematiche della scuola, però insomma non prende posizione a favore di una parte piuttosto che dell'altra. Tema principale è quello dello spreco. Sì, perché se ci limitiamo a dire nella scuola ci vogliono più soldi, invece di più siamo tutti d'accordo, però poi restiamo al punto di prima. Quindi io ho cercato di dimostrare che nella scuola è possibile, razionalizzando e non tagliando così orizzontalmente, ma andando a individuare tutti gli sprechi, verranno risorse che permettono di valorizzare il ruolo degli insegnanti. addirittura arrivando fino a raddoppiare lo stipendio. E quindi torniamo al tema iniziale. Lei la prima cosa che farebbe è quella di raddoppiare lo stipendio agli insegnanti, ma non attraverso maggiori risorse, che poi sappiamo in questo momento probabilmente non ci sono, ma attraverso l'individuazione degli sprechi, che davvero lei li elenca con grande puntualità e con grande lucidità, forse proprio perché ha fatto non solo l'insegnante ma anche il preside. Ne vogliamo citare un paio di quelli più clamorosi? Sì. Non so, pensa a quello dei bidelli ad esempio. Sì, nella scuola, vale per i bidelli ma vale per gli insegnanti, c'è stato un patto perverso da decenni. Cioè, io ti assumo, ti pago poco ma non ti chiedo niente. Dobbiamo rompere questo patto. Nella scuola ci vogliono professionalità impegnate a tempo pieno e che mi garantiscono la qualità del servizio scolastico a tutti i livelli. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo. Vi ricordo che se volete riascoltare questa trasmissione come tutte le altre potete farlo su radio24.it.